Giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Quella che raccontiamo oggi è una storia che mette ancora paura. Perché non è una storia qualsiasi dell'Italia criminale, quella che ha operato tra gli anni 60 e gli anni 90. La banda della Magliana. Nasce tra i giottoli che costeggiano lunghe file di case popolari, nelle piazze senza verde, nei quartieri senza servizi, nati negli anni della speculazione edilizia. Sparsi nella periferia di Roma. Mette paura perché i componenti della banda non sono dei delinquenti come altri. Tutto inizia sul finire degli anni 60. L'idea di un gruppo di giovani balordi romani è unire le forze dei vari gruppi della criminalità che agiscono nei quartieri e nell'interland della capitale. Franco Giuseppucci, Nicolino Sedis, Maurizio Abbatino, Enrico De Pedis decidono così di eliminare le infiltrazioni esterne alla città e assumere il controllo diretto di tutti gli affari illeciti della capitale. La banda della Magliana nasce dunque come organizzazione dedita al traffico della droga, cocaina ed eroina in particolare, all'usura e ai sequestri di persona. Si trasforma nel giro di pochi anni in una vera holding politico-criminale, un vero antistato come la definisce il magistrato di Bologna Libero Mancuso. I rapporti si allargano. La banda della Magliana ha contatti accertati con Pippo Calò, cassiere della mafia, Raffaele Cutolo, a capo della nuova camorra organizzata, i capi dell'andrangheta calabrese, esponenti politici, uomini degli apparati dello Stato e dei servizi segreti, come i vice capi del SISMI, Giuseppe Belmonte e Pietro Musumeci, elementi provenienti dal gruppo di estrema destra eversiva, NAR, come Massimo Carminati, Claudio Bracci, Alessandro Alibrandi, Gilberto Cavallini. Ma chi sono i principali componenti della banda della Magliana? Andrea Viale. Franco Giuseppucci, classe 1947, un fascista convinto. Alla carnagione scura, gli amici lo chiamano Er Negro. A Testaccio e Trastevere è conosciuto e rispettato. Sarà lui il principale collegamento con la destra eversiva, assassinato nel settembre dell'80. Danilo Abruciati, inizia con furti e rapine, ha rapporti con Cosa Nostra e con gli ambienti del riciclaggio di denaro sporco, frequenta Flavio Carboni e Francesco Pazienza, muore in una sparatoria a Milano nell'82 mentre tenta di uccidere Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano. Domenico Balducci, per tutti Memmo, legato a Pippo Calò, il cassiere della mafia, ufficialmente è proprietario di un negozio di elettrodomestici, in realtà fa lo strozzino, il cravattaro, come si dice a Roma. Inizia con le rapine anche Maurizio Abbatino, nato nel 54, si muove tra la Magliana, il Trullo e il Portuense, dove conosce diversi malavitosi, uomini fidati che entreranno a far parte della banda. Nel giro lo chiamano Crispino per i suoi capelli ricci e neri. Nicolino Sedis, classe 52, i primi reati a 14 anni, a metà degli anni 70 è già una figura di spicco della criminalità romana. Basso e pieno di tatuaggi, finisce spesso in carcere, dove diventa amico di Raffaele Cutolo, il capo della nuova camorra. Ucciso nell'81, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Enrico De Pedis, trasteverino puro sangue, detto Renatino, è titolare di un incredibile patrimonio personale. Viene ucciso nel 90, è sepolto in una chiesa di Piazza Navona tra nobili e grandi artisti del passato. Una sepoltura prestigiosa per quello che sarà l'ultimo boss della banda. E allora, la banda della Magliana è organizzata in batterie di quartiere, una indipendente all'altra solo in modo apparente. Traffici illeciti di ogni tipo, ma contatti accertati con apparati dello Stato. Per comprendere fino in fondo qual è stata l'influenza della banda della Magliana, ci siamo avvalsi di una memoria del giornalismo italiano, un maestro per molti di noi che ci siamo occupati delle storie d'Italia. Gianni Flamini, giornalista, scrittore, autore dei principali libri storici sul tema. Fu verso la fine degli anni 70 che si coagularono a Roma una serie di bande di malavitosi, le chiamavano batterie. Prese forma poco a poco quella che poi sarà definita genericamente banda della Magliana, che in realtà non era una banda ma una specie di confederazione o holding di quelle batterie che abbiamo detto. Fin dall'inizio ne hanno fatto parte o gravitavano nel suo ambito

I capi si erano dedicati a una spietata mattanza per eliminarsi a vicenda, finché nei primi anni 90 la disgregazione della banda, almeno nella sua annosa e tradizionale configurazione, era un dato acquisito. La vita della banda della Magliana, a conti fatti, si è protratta per poco meno di una quindicina d'anni. Nell'estate del 96 la Corte d'Assise di Roma ne processerà e condannerà parecchie decine di affiliati. Finalmente, verrebbe da dire, perché negli anni precedenti i tribunali romani erano stati molto comprensivi con la banda della Magliana. A partire dal 1986 si erano svolti diversi processi, sempre con esiti sostanzialmente positivi per gli imputati. E quando si era verificato il caso inverso, era intervenuta la Cassazione, che il 14 giugno dell'88 aveva annullato una sentenza di condanna negando addirittura l'esistenza stessa della banda della Magliana. Franco Giuseppucci, Danilo Abruciati, Enrico Nicoletti, Nicolino Sedis, Massimo Carminati e altri ancora. Quali misteri inconfessabili nascondono ancora oggi le loro imprese criminali? Una holding affaristico-criminale? Una vera e propria agenzia per lavori sporchi? Oppure entrambe le cose?